Elementare, Watson. La scienza risponde alle vostre domande. Di Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco. La domanda di oggi a Elementare Watson è, Chiara? Ah, ci arriva, non anticipo nulla, ma ci arriva da Giovanni, un vigile del fuoco della provincia di Caserta. Diamogli la parola. Allora, se l'accelerazione di gravità è costante, a prescindere dal peso, come mai la freccetta del badminton cade sempre con la parte pesante verso il basso? E lo stesso vale per le bombe sganciate dagli aerei oppure per le fette di pane che cadono sempre dalla parte farcita? Come mai le fette di pane cadono sempre dalla parte imburrata? C'è fior di scienza dietro. E allora noi andiamo dal nostro fisico di fiducia, Emiliano Ricci, bentornato, benvenuto. Salve, buongiorno, buonasera a tutti, buonasera. Ciao Emiliano. Ciao Emiliano, fisico di fiducia, divulgatore scientifico, ormai sei un grande nostro amico, quindi ti diamo del qua tu da noi. E ti diamo anche la parola. Qual è il mistero? Sì, allora, per prima di parlare della fetta di pane farcita, rispondiamo rapidamente alla prima parte del quesito, che è quella sull'assetto di volo della pallina del badminton o delle bombe. In realtà tutte le parti sia della pallina che della bomba cadono alla stessa velocità e sono accelerate alla stessa maniera dall'accelerazione di gravità, assumono quell'assetto in volo perché c'è la resistenza dell'aria e sono progettate e disegnate a quella maniera proprio perché si orientino in modo che la parte pesante appunto in volo si orienti verso il basso e quindi non è un problema di gravitazione, è un problema di fluido forma. Dell'aria è un problema di forma dell'aria, del fatto che appunto le piume della palla del badminton e diciamo la parte posteriore delle bombe degli aerei progettata in maniera tale da far assumere proprio quell'assetto in volo e farlo cadere a quella maniera. Il quesito riguarderebbe sostanzialmente il principio di equivalenza, come viene, cioè il fatto che la massa gravitazionale sia equivalente alla massa inerziale, come enunciato anche da Einstein. E effettivamente non è una violazione il fatto che la pallina del badminton si orienti, ma è piuttosto una questione di fisica di classica, di orientamento dell'oggetto dentro un fluido che è l'aria. Resistenza dell'aria. Va bene, quindi l'accelerazione di gravità è la medesima. Però il vero quesito è il toast plof, che cade sempre dalla parte imburrata. Uno potrebbe invocare la famosa legge di Murphy, no? Che se qualcosa può andare male lo farà, e quindi se una fetta di pane imburrata può cadere dalla parte. Ma noi sappiamo che la sfortuna non esiste, quindi non esiste. Allora, ci sono degli studi interessanti che effettivamente dimostrano che a partire dall'altezza tipica di un tavolo, la fetta di pane, che tipicamente è orientata con la farcitura verso l'alto, non fa in tempo a fare mai una rotazione completa e ne fa tipicamente mezza. E quindi se cade da un tavolo, normalmente la farcitura è la parte che va a finire per cioè terra. Perché il tavolo è 80 centimetri. Se ci fosse un tavolo altissimo, del tavolo, per farla cascare con la farcitura in alto, bisognerebbe che il tavolo fosse alto il doppio sostanzialmente. Ah, quindi se il tavolo fosse altissimo la fetta non staremmo qui piroetterebbe e quindi sì, potrebbe fare più giri, più rotazioni, potrebbe fare, cioè, questa, quando la fetta di pane cade si sporge un pochino, perde l'equilibrio e quindi comincia a ruotare sicuramente, perché il baricentro della fetta di pane a quel punto esce fuori dal piano di appoggio e costringe la fetta di pane a ruotare. C'è un aspetto importante che vorrei che tu sottolineassi, c'è un paradosso, un falso paradosso che viene detto del gatto imburrato, che so sì, che tu certo, conosci certo. Bene e che ti pregherei di raccontare agli ascoltatori. Sì, il paradosso del gatto imburrato è un paradosso che riguarda il vuoto perpetuo sostanzialmente. Noi sappiamo che la fisica impedisce, diciamo, le leggi della fisica impediscono il moto perpetuo, cioè l'esistenza di un qualche meccanismo che messo in moto possa continuare a muoversi all'infinito senza essere alimentato. E il gatto imburrato è diciamo una possibile soluzione, perché parte da due presupposti, cioè il fatto che la fetta di pane cade sempre dal lato imburrato e i gatti cadono sempre in piedi. È vero. Quindi se noi mettiamo sulla schiena di un gatto una fetta di pane imburrata, non si sa da che parte deve cadere. Si crea il moto perpetuo, rimane in aria. Il gatto cerca di ruotare per cadere in piedi, ma anche la fetta di pane muta. Lotta per rimanere. E nella lotta, ovviamente. Va bene, dai, era un paradosso. Sperimentazione. Vince il gatto, e quindi il gatto imburrato è un classico esempio in cui la fetta di pane cade dal lato giusto. Ecco, bravo, questa è una bella spiegazione. Grazie davvero, Emiliano. Buona giornata. Grazie a voi, anche ciao, a voi, Emiliano. Anche voi come Giovanni avete domande da porci? Bene, scriveteci a elementare@radio24.it perché rispondiamo a tutti. Tito Toro di Ferrara ci scrive: cara redazione di Möbius, ho un'elefantessa, specie africana, 25 anni, 4 tonnellate. Vediamo sempre insieme Un posto al sole alle 21 su Rai 3, ma adesso ho preso un lavoro come guardiano notturno e attacco alle 20. Voi sapete se ci sono in giro dei telecomandi con i numeri un po' grandi? Elementare Watson.